un mistero controverso, in equilibrio precario tra il mito e il fatto storico. E forse proprio per questo ancora più interessante. Quello che vede coinvolta la Calabria, e per l'esattezza Tiriolo, è un mistero che nonostante fornisca molte risposte, in realtà ne lascia altrettante. Dati storici, documenti, personaggi reali, ma nessuna reale prova tangibile che dimostri che in quella terra siano stati scoperti degli scheletri di giganti. Eppure questa storia sembra avere qualche fondo di verità. Ma partiamo dall'inizio. Il 24 giugno 1663 viene inviata una lettera dal medico Giovanni Battista Cappucci all'importante e rinomato luminare della medicina di quell'epoca, Marcello Malpighi. In tale lettera Cappucci informa il dottor Malpighi che durante dei lavori era stato ritrovato immerso in una strana pece bruna uno scheletro dalle innaturali dimensioni, quasi di 3 metri. Sperai nell'aprile prossimo aver materia di scrivere a vostra signoria eccellentissima una lunga lettera sopra il ritrovamento d'un sepolcro antichissimo aperto nella campagna di Tiriolo, terra di questa provincia, et in esso d'un'ossatura di cadavere gigantesco innante in una notabile quantità di cerume. Un dente anche mi fu promesso dal medesimo cadavere, che corre voce sia stato di 15 palmi di statura. C'è da dire che il dottor Cappucci non fu presente al momento del ritrovamento, il che ci pone con diffidenza nei confronti della lettera. Ma ciò nonostante, la corrispondenza che intercorre è tra due luminari nel campo medico, quindi ci fa presupporre quantomeno una buona fede nel comunicare la scoperta. Ad infittire il mistero, ad ogni modo, è il fatto che di documentazioni di ritrovamenti come questa ce ne furono altri. Nell'opera Calabria illustrata dello storico locale, il cappuccino padre Giovanni Fiore, vissuto anch'egli nel 600, viene menzionato il fatto che a Catanzaro, essendo una terra antica ricca di reperti, vengano ritrovati giornalmente sepolcri di antichi giganti, cosa supportata, secondo alcuni, anche dal fatto che l'antropologo scozzese Crawford Tate Remage, nel libro Viaggio nel Regno delle Due Sicilie, nel 1828 menzioni di aver ricevuto un manoscritto da un altro storico locale, nel quale viene riferito il ritrovamento di un cranio fuori misura insieme a delle armi. Bisogna però dire che nell'opera di Crawford non viene menzionato esplicitamente il manoscritto di Giovan Battista Ursano, il chierico a cui viene attribuito. Ma è altresì appurato che Tiriolo, così come le zone limitrofe, sia un suolo molto ricco di reperti archeologici, che venivano anche scovati normalmente dai contadini mentre aravano la terra. Qualcosa quindi è stata trovata. Ma cosa? E soprattutto, che fine hanno fatto tutti questi strani ritrovamenti? Considerando l'epoca e la concezione di conservazione archeologica ben lontana dalla nostra, e il fatto che spesso fare i ritrovamenti fosse gente totalmente estranea al settore, non è difficile pensare che, se scoperti, questi reperti possano essere andati perduti o danneggiati, se non addirittura finiti in mano a collezionisti privati. D'altra parte anche Crawford riferì che nel museo di Tiriolo, che lui visitò, vi erano molte cose anche curiose ma male organizzate. Ad ogni modo, le presunte testimonianze sulla scoperta degli scheletri dei giganti di Tiriolo arrivano sino ai giorni nostri, per l'esattezza agli anni 60. Di quest'ultimo rinvenimento, tuttavia, nonostante vengano menzionati nomi e luoghi, non si trovano informazioni sufficienti da lasciarci pensare che tale storia possa essere affidabile, sebbene si parli di strani ritrovamenti di scheletri un po' in tutto il territorio della Calabria. Quel che è certo è che tutto il territorio del Tiriolo è ricca di reperti storici che risalgono alla popolazione italica del IV secolo a.C., tra i quali una tomba monumentale il cui ritrovamento di scheletri con tanto di corredo funerario e armi tanto ci ricordano le scoperte menzionate tra il 600 e l'800. Quindi niente giganti? In realtà la storia è controversa e andrebbe ulteriormente approfondita, visto che anche alcuni studiosi omerici, tra cui Franco Musino, hanno seriamente considerato il Sud Italia come lo scenario reale dell'Odissea, tra cui la Calabria come terra dei giganti affrontati da Ulisse. È possibile quindi che sia esistita un'antica popolazione italica dalla struttura fisica molto più alta rispetto a quella più minuta meridionale? Forse il mito di tale popolazione si è perpetrato e appunto ingigantito nel corso dei secoli fino a noi? Oppure c'è ancora molto che non sappiamo del nostro territorio e degli abitanti antichi che popolarono le terre italiche? La risposta è dura a darsi, ma voi cosa ne pensate? È possibile che sia esistita una popolazione di giganti? Avete mai sentito storie in merito nelle vostre regioni? Scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace e regalatemi una piccola condivisione. Se non l'aveste già fatto, iscrivetevi al canale cliccando sulla campanella. Io vi do appuntamento la prossima settimana con un altro racconto dalle ombre. E ricordate, mi trovate anche su Instagram e Facebook. Alla prossima!